tutti i bambini con i chiodini vanno a inchiodare Gesù. Vieni sul Monte Calvario anche tu, andiamo a inchiodare Gesù. E la Madonna, povera donna, andiamo a inchiodare anche noi. Vieni sul Monte Calvario anche tu, andiamo a inchiodare Gesù. Inchiodalo bene con le catene che non ci vieni più giù. Vieni sul Monte Calvario anche tu, andiamo a inchiodare Gesù. Amici e compagni di Radio Wombat, benvenuti a una nuova puntata del notiziario anticlericale. Partiamo dalla recente celebrazione del 150° del 20 settembre, la presa di Porta Pia, e ribadiamo che i soldati italiani uccisi dai papalini furono 48 e non, come detto erroneamente su Rai Storia, canale 54, solo 30. E c'è stata organizzata all'UER una bella manifestazione con concerto, lettura di brani e ho venduto ben 26 calendari anticlericali del 2021. 29 agosto 2020, fulmine anticlericale in Francia, Pont du Gard, sfondata la sacrestia, guglia spaccata, uso l'impianto elettrico. Buona notizia anche dal Cile, Tito Rivera, sacerdote accusato di stupro, trovato morto nella cattedrale di Santiago, era accusato di molestie sessuali. Un romanzo anticlericale contro Papa Giulio II, il famoso Papa guerriero. Il romanzo anticlericale tratta di questo frate, di una serie di nipoti di papi, di agguati, ambizioni brucianti, oscure manovre, campi di battaglia, trame, congiure, sete di potere, insomma tutto quello che ha sempre caratterizzato la Chiesa negativamente. Poi ricordiamo che è appena uscito il mio ultimo libro, Pierino Barazzani, Il razzismo nella storia della Chiesa. 2000 anni di ambiguità, complicità e connivenze. Per richieste costa solo 9,50 €, pagina 135, testo rigorosamente documentato. Per richieste 331-730-2874 oppure info@ediziniformamentis.it. In New Jersey, Stati Uniti, arrestato un prete per molestie sessuali contro una donna, 19 agosto 2020. A Oristano, queste suore manesche, che abbiamo una grande collezione nel mio archivio anticlericale di suore manesche, piccoli alunni puniti con le botte, denunciata la suora, 16 settembre 2020. Suora e maltrattamenti, occhio alle suore che sono tutte una peggio dell'altra. Filmavano rapporti sessuali in canonica con il prete. 9 febbraio 2020, scandalo nella parrocchia di Campodarsego, Padova. Il parroco aveva rapporti omosessuali con un giovane, c'è perfino un video. Vittoria anticlericale in Valcamonica, stop al suono delle campane di notte e alla domenica mattina, ottimo, ottima vittoria. Vittoria anticlericale anche in Trentino, ricordiamo che la provincia di Trento è la provincia più clericale d'Italia. Al referendum sulla legge 194 fu l'unica provincia in tutta Italia dove vinse il sì all'abrogazione. A Clesco è successo, ha chiuso un altro convento di francescani. Bene, ottime notizie. E da Arese in provincia di Milano, ottime notizie, dopo 40 anni di lezioni la campanella non è suonata alla scuola media salesiana, molto bene. Poi abbiamo un'inchiesta statistica, italiani lontani dalla Chiesa, triplicato il numero degli atei e di chi non va a messa. Indagine di un noto sociologo di nome Franco Garelli, molto bene. Abbiamo poi buone notizie anche da Arezzo, padre Graziano, il prete assassino, che ha fatto sparire anche il corpo della sua amante, questa povera signora guerrina, madre di famiglia, quindi assassino, diciamo ha cagionato gravissimi danni psicologici a questo povero bambino che crescerà senza la madre. Padre Graziano non potrà più dire messa, espulso dall'ordine francescano. Occhio ai francescani che sono tra i più pericolosi. Stop a pillola dell'aborto e magari in Piemonte, ecco i soliti filo crocifissi della Lega, sempre nemici delle donne. Cosa succede a Roma, in provincia di Roma? In questo paesino di nome Sant'Oreste, questo parroco ha sposato due donne in chiesa. Gesto inopportuno e pare poi sia stato sospeso a divinis. È una notizia recente. Chiesa e criminalità. Padre Pio non farci arrestare. Avevano invocato la protezione di Padre Pio e così di fianco alla droga avevano messo statue del santo di Pietralcina, la Pia Mafia. Sulla rubrica Sorgente di Vita su Rai 2 del 13 settembre 2020 si è parlato della strage di Siena. 13 cittadini ebrei furono assassinati il 28 giugno 1799. Dall'archivio anticlericale del Circolo Papini, archivio Travaglini di Fano, questa notizia storica. 1 agosto 1874. Fra Berardo da Ferentino arrestato a Frosinone per fabbricazione e spaccio di carta moneta falsa, quindi un falsario. Sempre da questo archivio, 15 marzo 1874, arrestato un monaco dell'ordine di San Basilio a Roma, aveva bastonato a sangue sul cranio un confratello riducendolo in coma. Ecco, i preti si ammazzano fra di loro, a noi va bene, insomma. Cesaro papismo, chiodo fisso dei papi medievali e dell'età moderna, consisteva nel cercare di espandere al massimo i confini geografici dello stato della Chiesa e della sua area di influenza. Chiesa ermafrodita esprime il concetto di una Chiesa cattolica dalla doppia faccia, l'una fintamente spirituale e l'altra decisamente materiale. Benissimo, arrivederci alla prossima puntata del notiziario anticlericale. Saluti da Pierino Marazzani, Circolo Giordano Bruno di Milano. Tutti i bambini.